questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Poi a Spiliqueta, De Mamà! Al 41esimo minuto e mezzo, sul pallone vacante, De Mamà porta il Chelsea in semifinale e finisce qui con il trionfo del Chelsea. Entra Schürrle e Schürrle segna, entra De Mamà e De Mamà segna. Questo si chiama? Culo. No! Abbiamo avuto questa piccola fortuna che tu hai bisogno per vincere queste partite, questo è logico. Se becchi il Real è l'ultima? Vediamo che possiamo fare, di sfruttare, ho detto ai giocatori enjoy, per questi giovani è un'esperienza fantastica, per gli altri più campioni, veterani, per loro finire di questo modo con sua squadra arriva su, fantastico. Sono un ragazzo fortunato perché m'hanno regalato una prova vivente che quando uno è bravo conta e come. Franco Piantanida qui con me a Vinitaly, con Paolo Corleoni, 800240024, Pardo invece ha un ologramma perché ieri era qui, poi si è materializzato a Madrid. Eccolo. Tutto bene, volo, viaggio, tutto a posto? Tutto bene, sì, sì. Ti sveglio. Signora sta bene, tutto tranquillo. Tutto bene, insomma. Sì, sì, siamo 100 metri dallo stadio, quindi... Sì, cioè, partita. Abbiamo in linea, adesso lo geolocalizziamo, so che è a Madrid, non so se è vicino a te da un'altra parte. Maurizio Crosetti, ciao. Eccomi, no, adesso non voglio tirarmela, ma sono sull'ingresso del museo Thyssen, dove devo assolutamente fare sfoggio di una cultura figurativa assoluta, anche perché devo prepararmi a quell'opera d'arte assoluta che si chiama Leo Messi. E ho deciso che non c'è miglior modo di una mostra su Cézanne per, come dire, adattare il mio occhio all'arte, quindi ecco dove sono. Bella questa? Altro livello, altra categoria. Signor Cézanne, prima di parlare di Champions, posso dire che il pezzo di oggi sul destro era perfetto. Sì. Nel senso che poi devo dire che adesso smaltiti i fumi dell'alcol e focalizzato su quello che è successo esattamente con i fax, i controfax, emerge un caso incredibile dal punto di vista regolamentare, nel senso che è veramente un caso mai di moviola. Certo, è una moviola postuma, ma l'incertezza del diritto, scrive oggi il signor Crosetti su Repubblica, ed è così perché è una moviola postuma, cioè è stata utilizzata la moviola retrodatandola al momento di quello schiaffo di destra da Story, e Crosetti ha ragione, è una deriva molto pericolosa perché è un precedente pazzesco, dai su, è una cosa che non ha senso, perché un conto era il pugno di De Rossi o il Juan Jesus, certo. Cioè delle situazioni che sono completamente sfuggite all'occhio dell'arbitro. Succedono, l'arbitro non ha visto quella situazione, l'arbitro l'ha vista male, però l'ha valutata. E l'ha valutata bene o male, però insomma c'era una valutazione dell'arbitro, cross. È così, è una totale un totale ribaltamento del senso proprio della norma che aveva introdotto la prova giù, l'ho scritto, e questa è una mascherata, hanno messo il costume di carnevale di Pierrot alla prova TV e l'hanno vestita da moviola in campo, basta chiamare le cose col loro nome. La moviola non può correggere gli errori. No? Mao. Mascherata può stare anche per pagliacciata, è un sinonimo. Sì, è così, perché questo è l'anno dell'incertezza del diritto, è l'anno in cui si cambiano le regole in corsa, è l'anno in cui non si capisce niente, e poi stai a vedere che la colpa è della televisione. Scusa, se io prendo un obiettivo fotografico e lo sfascio in testa a mio cognato, la colpa non è della Nikon o della Canon, cioè voglio dire, io credo che poi alla fine sia un uso totalmente improprio e anche un po'. È anche un po' vigliacchetto, è anche un po' subdolo, no? Di questo di questo strumento, perché non si può scrivere una sentenza del genere, non si può dare, poi qui non si tratta, poi lo so già che fai un discorso così, allora sei della Roma e sei contro la Juve, forse sei della Juve, certo, contro la Roma, sì, perché anche Chiellini aveva la mano alta. Ecco, tutto questo non ci interessa niente, non niente, è un problema, certo, di Roma o di Juve, è un problema di chiamare le cose col loro nome. La moviola in campo non è prevista nessun regolamento per ora, finora. C'è una prova TV che scatta quando l'arbitro non vede. Se l'arbitro vede e addirittura sbaglia perché è entrato nell'azione ammonendo un che non c'entrava nulla, quindi dando prova di aver visto e sbagliato la sua valutazione, allora la moviola serve soltanto a noi che facciamo, vediamo la televisione. Sì, in effetti è così. In effetti è così, è una moviola mascherata, è una mascherata, è una pagliacciata. Adesso no, a questo punto capisci che potrebbe valere per adesso? Tutto. Ma sai cosa succede adesso? Che in secondo grado modificano. Scommettiamo? Ma lo spero vivamente, perché, certo, ma ripeto, per un discorso proprio di principio. Poi, secondo me, il gesto di destra, ieri ne abbiamo parlato, rimane un brutto gesto, nel senso che secondo me è un eccesso agonistico sbagliato, e secondo me il giocatore della Roma sarà il primo, però è veramente un precedente che, se dovesse passare, a quel punto renderebbe possibile tutto, perché con una interpretazione un po' estensiva, a quel punto anche un calcio di rigore, anche una partita falsata da un gol in fuorigioco, sì, no? Sì, cioè, sì, se arriviamo ad accettare il principio che se l'arbitro vede male, nel senso che non vede nella maniera corretta, perché qui ha visto la situazione, l'ha vista, non è che stava guardando da un'altra parte. Non è, sì, che era anche scritto ho visto male, non ho visto, no, no, bene, ma guarda, ieri sera, però va bene, ci sta, in questa festa bene, bellissima sui Colli Veronesi, dove eravamo insieme, c'era anche il signor Piantanida. A un certo punto io e il suddetto Piantanida abbiamo avuto veramente l'illuminazione del fatto che il punto è nel concetto di vedere, nel senso, uh-huh, che nell'interpretazione che diamo al concetto di vedere, perché qui l'arbitro non ha visto bene, sicuramente non ha visto bene quello che è successo, si è perso un pezzo, però ha visto la situazione, l'ha vista e l'ha giudicata. Nel momento nel quale la giudica, non può arrivare il giudice sportivo, per quella che è la prassi italiana, sicuro, non può arrivare il giudice sportivo a cambiare questo suo giudizio, perché altrimenti dovrebbe cambiare tutti i giudizi che sono sbagliati di tutte le partite. Diverso, sicuro, è il caso di De Rossi di Roma-Inter, il caso di Juan Jesus di Roma-Inter, cioè situazioni che sono lontane dall'occhio dell'arbitro, che a quel punto non si rende conto di quello che succede perché sta guardando dall'altra parte, non si rende conto di nulla, lì non vede e non giudica, e allora lì ci può stare per i casi clamorosi di condotta violenta, e sappiamo benissimo. Allora, ci fermiamo per il traffico, abbiamo già ascoltatore in linea, Pierluigi Pardo stai lì ovviamente, Maurizio, aspetta un attimo, entrare nel museo, ti chiedo ancora un attimo, ancora due chiacchiere, traffico. Entra Schürrle e Schürrle segna, entra Dembabà e Dembabà segna, questo si chiama? Culo. No! Tutti convocati. Invece no, e no, e tu, l'hanno visto con la Champions, mentre i bravi erano, e non è neanche quest'anno, e anche quest'anno, no, povero Ibrahimovic, no. Ragazzi, ma ditemi qualcosa di Mourinho, che ha suonato l'ottava, ha suonato il Paris Saint Germain, cioè fa otto Champions League e arriva otto volte in semifinale con squadre varie dal Porto all'Inter al Real Madrid, vincendola come sappiamo, e ha suonato il Paris Saint Germain, le sue stelle, i suoi milioni, tra l'altro questi hanno perso, i ragazzi di Parigi ieri sera hanno perso 200.000, perché li avrebbero presi oltre i 250 che hanno già intascato in caso di semifinale. Vabbè, quando un allenatore è bravo conta, come Maurizio. Ecco perché piangevano, tra l'altro, a fine partita i francesi, ora si capisce. Adesso, ogni lacrima adesso... era un diamante che cadeva dalle palpebre e si perdeva nell'erba, hai capito, come gli anelli. è bravo, ed è talmente tante cose insieme che ci frega ogni volta e ci fa dire che è soprattutto un comunicatore, che è soprattutto è un personaggio pop, che è soprattutto... Sì. un uomo immagine, un magnifico cavaliere di questi tempi televisivi, eccetera eccetera, però poi alla fine nella sostanza sarà il culo, sarà la grinta, sarà la bravura tattica, sarà questa compattezza che riesce sempre a costruire, perché i giocatori, specialmente vecchi bucanieri, che gli danno l'anima e fanno qualunque cosa per lui, insomma sarà tutto questo insieme, però accidenti, lui è sempre, arriva sempre lì, piaccia o no, è il numero uno. Ma dai, è il numero uno assoluto, ma poi Pier, tu sai benissimo, no? Questi sono tutti disposti a dargli qualunque cosa, a dargli il sangue in campo, e questo, secondo Guarda, me, questo è il grande risultato di Mourinho. L'ho già detto, ma conto sul fatto che non tutti ascoltino tutte le puntate dal primo all'ultimo minuto. Avevo fatto l'autobiografia di Eto'o nell'anno del triplete e io rimasi sconvolto dal livello di passione che Eto'o aveva anche in privato per Mourinho, perché faceva il terzino, perché era un giocatore che aveva già vinto a Barcellona tantissimo e che non aveva, poteva avere anche la pancia piena, no? O comunque poteva considerarlo come un bravo allenatore punta, un rapporto professionale punta. Invece era pazzo di Mourinho, era disposto a farsi le vasche delle fasce laterali da sinistra a destra, a difenderlo anche in alcune sue intemerate abbastanza coraggiose e discutibili quell'anno, no? Insomma, un po' di spettacolo ce l'ha regalato Mourinho. Questo per me è un dato inconfutabile di grandezza, è un condottiero, è un uomo che ti fa venire voglia di stare con lui, no? Se ci lavori è uno che ti fa venire voglia di essere dalla sua parte, che tira fuori il meglio di te, delle volte anche insultandoti, come è successo ultimamente, certo, a proposito degli attaccanti che sono scarti, sono vecchi, hanno più anni di quelli che dichiarano come il signore, no? Questi signori qui poi alla fine lo portano in semifinale con una squadra che dal punto di vista del talento è sicuramente inferiore al Paris Saint Germain. Poi c'è il fattore culo, sicuramente il fattore culo. Vabbè, nel senso ma che quello, poi, quello, no, ma nel senso che poi comunque diciamo che la fortuna male aiuta gli audaci, no? Sì, sì, poi devo dire la verità che all'andata, onestamente, io avevo commentato la partita, all'andata sicuramente non era stato fortunato, cioè il 3-1 è un risultato sicuramente bugiardo della partita d'andata, quindi poi alla fine, se guardiamo le due gare, credo che il Chelsea non abbia rubato nulla. È una squadra di vecchi mestieranti e di qualche giovane di grande talento, come ad esempio Schürrle, sicuramente, come Willian e come non gli altri. Non è tantissima che roba a questo livello dal punto di vista del talento, però com'è, no, certo, come dici, insomma, ne ha di più Paris Saint Germain, sicuro. Però io uso le parole dello stesso Eto'o, ti ricordi? Quando posso suonare la tromba, suono la tromba, quando devo suonare il tamburo, suono il tamburo e faccio il terzino. Questo è lo spirito del finale Barcellona-Milan 2006. Sei preparato come sempre. Ero quello lì che lo intervistava, per cui eri quello lì, della chitarra e del piano. Era la tromba del tamburo. No, io volevo chiedere ancora una cosa a Maurizio Crosetti prima di lasciarlo entrare nel museo di Cézanne. Tu passi con assoluta nonchalance, caro Maurizio, dallo zoo di danese, dallo zoo di Copenaghen a Cézanne a Madrid. Vabbè, questo sì, fa parte del tuo talento. Sì, perché non c'è mica differenza. Alla fine la bellezza è di una giraffa o la montagna Saint-Victoire, che è un quadro meraviglioso, un paesaggio con la montagna, il colle provenzale sullo sfondo. Io non ci vedo grandi differenze. Poi, ripeto, e nemmeno Messi, e nemmeno Iniesta. Cioè, alla fine sono tutte forme di bellezza che ci è concesso godere al mondo, perché abbiamo la fortuna di essere vivi. E quindi Cézanne e Messi sono due cose di cui stasera ringrazierò questa cosa qui la stracondivido, e credo che faccia parte di una tendenza della quale tutti noi insomma facciamo parte, che è quella di non vergognarci della nostra passione calcistica, di considerare il calcio una forma di arte ovviamente pop, ma una forma di arte assoluta, una cosa che è ragione di vita per milioni di persone nel mondo, in tutti i continenti, per cui insomma mi sembra che certi intellettualismi che ci potevano essere ancora qualche tempo fa nei confronti di questo gioco stiano venendo meno, e questo è merito di tante persone. Ovviamente in Inghilterra tutto cominciò con il libro fenomenale di Incordi a metà degli anni 90, Fever Pitch, febbre 90, che fu il primo libro che rese realmente letterario una passione assolutamente insana per una squadra di calcio, no? E lo fece diventare qualcosa di più alto. Ecco, mi sembra che poi come sempre non è che c'è l'alto e il basso per definizione, ci sono le cose belle e godere di queste cose fa parte della vita, quindi sono perfettamente d'accordo. È arte contemporanea, è arte, stiamo diventando dotti in una maniera schifosa, ma comunque è una corrente filosofica che si può definire la corrente del caciopepismo. Io ci metto anche la caccia e pepe lì dentro, senza scherzare, forse perché sono ancora a digiuno, ma qui si va a mangiare tardi. Cioè fa parte delle passioni della vita, meno male che possiamo goderne, ecco. Lo dico a Pierluigi, vi ricordate quando Walter Veltroni negli anni, che era, gli anni 90, 80, insomma, no, adesso non lo ricordo esattamente l'anno, ebbe quell'idea assolutamente, l'Unità era un giornale proprio di partito, pesante, insomma, non era, questa era opposta ideologica, no? Erano anni evidentemente diversi, e introdusse le figurine, i film e le figurine, no? Dentro al giornale. Certo. Certo. E molti, no, così storsero il naso perché sembrava una cosa assolutamente frivola, ma in realtà insomma pure quella è cultura, pure Pizza Balla è cultura, pure ma i certo, ma, che ma, come, ma bambini, poi facciamo i fighi, ma è come il direttore Savia Cobelli che salvò tutto sport con l'illuminazione del calciomercato 365 giorni l'anno, perché bisogna dare anche alla gente quello che la gente vuole. E comunque, l'ultima cosa su questo, perché ho letto che ieri addirittura, a proposito di quanto questo ormai è diventato un calderone post ideologico, ho letto la battuta di Renzi a Padoan sul fatto che il motivo di preoccupazione ieri nel presentare il decreto, ha fatto questa battuta della giornata del ministro dell'economia fosse in realtà la squalifica di destro, e onestamente conoscendo Renzi e conoscendo quanto personaggi anche di straordinari che rivestono ruoli di straordinaria rilevanza poi di fronte alla squadra di calcio del loro sport preferito, poi alla fine sono ragazzini, il calcio da questo punto di vista è veramente una livella, meno male che è così. Maurizio, prima di salutarti dammi un pronostico secchissimo su stasera, su Atletico Barça, chi vince, chi passa, che succede? Vince Barcellona, passa il Barcellona e viva il tiki-taka. Ho scritto, ho preso nota, domani apro le urne. Grazie Maurizio. Ciao. Abbiamo la borsa, Pierluigi sta lì, poi Tommaso, Alessandro, Dino sono già in linea. Grazie per l'attesa, ci sentiamo dopo le informazioni dei mercati finanziari. Come to your brain that maybe you cannot do it, but certainly good luck. This is your family. Tutti convocati. To your brain that maybe you cannot do it, but certainly good luck. This is your family. E questo è Ibrahimovic che augura buona fortuna al signor Mourinho dopo la partita. Io confermo che il mio grande dolore è quello dell'eliminazione di Ibrahimovic, non tanto il Paris Saint Germain, ma Ibrahimovic era già stato eliminato dall'infortunio nella partita di andata, dunque me ne farò una ragione. Poi c'è chi ci dice non fate pronostici perché li sbagliate, ma chi se ne frega, siamo qui a fare gli scaramantici, allora stiamo una volta in più con Ibra, che augura buona fortuna al suo vecchio maestro. Senti Pier, ma sai che c'è un ascoltatore, si chiama Davide, da Santo Domingo scrive questo messaggio aggiungendo buon perizoma a tutti, che se la mena con destro. Non avete ancora capito che l'arbitro ha ammonito per la reazione ma non ha visto il momento del gancio di destro, quindi non ha giudicato pure sì, ma chi non vede, allora sì, che l'arbitro non abbia visto il gancio di destro è sicuro, ma gli arbitri non vedono un sacco di cose, malafede, giusto? Ma certamente. Però è il concetto di guardare, l'arbitro vede l'azione e la giudica male e si perde il pezzo nel quale destro colpisce in quel modo lì. L'azione la giudica, altrimenti poi adesso non lo so, pensa, scegli tu a tuo insindacabile giudizio un errore arbitrale della stagione. Ma non ci penso neanche, ragioniamo. A me gli errori piacciono perché sono parte del gioco. Con questo principio, qualsiasi caso arbitrale della, qualsiasi errore arbitrale della stagione, l'arbitro o il guardaline vede male. E allora uno può dire non ha visto il fuorigioco. Certo che non ha visto il fuorigioco, ha pensato che fosse in gioco, ma non è che arriva il giudice sportivo e cambia il suo giudizio. E qui sta succedendo questo, cioè l'arbitro ha visto destro, ha visto l'azione, ha visto destro da storia ed ha giudicato male secondo me, però ha giudicato, per cui è certo che non ha visto il colpo, così come se c'è un calcio di rigore con un contatto fra due giocatori e l'arbitro non vede il contatto, però sta guardando l'azione, e non è che il giudice sportivo decide che quel rigore lì poi glielo ridà. Se no davvero ha ragione Crosetti, ma ha ragione Crosetti in generale, siamo alla moviola postuma, cioè alla moviola dopo che rivede le partite. Questa è moviola chiaramente, e io torno a ripetere, a me l'errore piace che sia dell'arbitro, del giocatore, perché è parte integrante del gioco, non solo il calcio, l'errore ma dello sport. Piace pure a me, quindi... però tu devi pensare alla ratio con la quale è nata questa idea del giudice sportivo, no? Che interviene e che decide determinate sanzioni per fatti di condotta violenta. Il principio fondamentale che è stato sempre applicato in Italia è il fatto che l'arbitro stia guardando da un'altra parte, qualcosa che sfugge completamente al giudizio arbitrale. Se questo qualcosa invece l'arbitro lo giudica, in questo caso sicuramente male, perché insomma che destro non sia protagonista di un qualcosa da... Come si diceva ieri, lo butta fuori, piglia due giornate di squalifica e festa finita. Aspetta, Tommaso da Firenze, Alessandro e Dino, che sono lì da un sacco di tempo, li ringrazio. Tommaso, buongiorno. Salve, buonasera. Ciao. Io Dica. Non condivido affatto la vostra analisi su Mourinho, perché come allenatore è logico che i risultati li ha ottenuti, ma se noi andiamo a fare una valutazione un po' meno leggera di quella che avete fatto voi, il giudizio su Mourinho viene ridimensionato. Si sta parlando sempre di un grande allenatore, ma non lo metterei nella top 5 degli allenatori. E chi ci mette? No, prima vi voglio spiegare il perché, la top 5, eh. Io ce lo metto nella top 5, ma non è il mio allenatore preferito, è solo che ha raggiunto l'ottava semifinale di Champions League in carriera, e uno oggi due cose su Sì, ho capito, lì, ho capito, ma non l'ha raggiunta col Pescara. Se si toglie il primo periodo portoghese, poi dopo ha raggiunto le semifinali con tutte le squadre che in semifinale era già considerato un fallimento, quindi siamo seri. Ma qual è l'allenatore che vince la Champions League con una squadra scarsa? Era per quello che volevo insistere quali erano le dimensioni per il quale viene valutato un allenatore. Uno è il motivatore e la gestione del gruppo, un altro è le capacità manageriali di valorizzare le risorse della squadra, e il terzo è il gioco. Sul terzo siamo pienamente d'accordo, e lui non ha portato nessuna innovazione. Se voi avete visto ieri il secondo tempo, vi sarete resi conto della partita Chelsea contro PSG, che Chelsea non ha praticamente giocato, ha fatto pallonettate. Su questo è incontrovertibile, perché sennò il calcio non lo guardate. Sulla capacità manageriale, ripeto, non è che si sta parlando di una squadretta che ha giocatorini di serie B, si sta parlando di William. Mourinho è una pippa perché non fa giocare bene le sue squadre, capacità manageriale come gli altri. Allora qualcuno mi deve spiegare perché ha vinto quello che ha vinto, ed è chiaro che con le squadre scarse non vinci, perché nessuno vince con una squadra scarsa. E 8 semifinali di Champions League non le ha fatte nessuno. Poi allenare una grande squadra è un mestiere molto particolare, e secondo me in questo mestiere molto particolare Mourinho è il numero uno. Questo è il mio pensiero, semplicemente il mio pensiero, perché però è nella categoria dei grandissimi, è nella categoria dei 4-5 grandissimi allenatori: Capello, Ancelotti, Guardiola, sono questi qua. Io sono d'accordo sul fatto che dal punto di vista del gioco non sia l'allenatore più Phil Ferguson, perché dal punto di vista del gioco non sia l'allenatore più figo che esista in assoluto, però insomma i risultati sono la sua parte. Per me la sua grande specificità è quella lì, è questa capacità incredibile di comunicazione e di coinvolgimento del gruppo, che per me è una cosa che lui ha. E poi dobbiamo anche capire, Pier, se per bellezza del gioco intendiamo soltanto l'estetica o intendiamo anche altre cose, perché a me la partita dell'Inter a Barcellona è piaciuta da morire, cioè quella partita secondo me fu meravigliosa, pur non essendo bella, però quella in 10 contro Barcellona, vai lì, giochi in quella maniera, a me è piaciuta, cioè dal punto di vista emotivo, dell'intensità eccetera. Poi vedi Barcellona, esteticamente è un'altra roba. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io vorrei ritornare sulla questione di destro. Lo stesso ho detto già troppo, però voglio fare una premessa: sono assolutamente contrario alla prova TV, in qualsiasi modo venga proposta, perché la prova TV secondo me non garantisce tutte le squadre allo stesso modo, non copre il 100% del campo e gli episodi vengono scelti da chi, quindi l'avrei abolita. Qui già vorrei tagliare la testa a toro. Detto questo, però, voglio dire che trovo, siccome il regolamento c'è, è giusta la squalifica che secondo me che ha preso Destro, perché episodi uguali ci sono stati in passato, dove faccio un esempio, quello di Krasic, famoso, il rigore a Bologna, lì l'arbitro anche lì aveva visto sbagliando, tant'è vero che aveva segnato il rigore alla Juventus, e poi la Moviola ha stabilito che questo aveva simulato. Krasic ha preso 3 giornate e nessuno si è stracciato le vesti per Krasic, anzi qualcuno chiedeva pene ancora più dure. Sì. Stesso episodio mi sto perdendo, no? Ma anche perché sono discorsi che mi annoiano un pochino, quindi il senso l'abbiamo capito, però non lo so, secondo me questo è un caso del tutto diverso rispetto agli altri, ma e come sembra tale, cioè quello di Oliveira di 2 anni fa, che lo è Roma-Fiorentina, lo stesso caso dove Oliveira ha fatto un fallo su Pjanic, giuro li rimuovo. Ha preso 4 giornate. Sì, va bene, ma però in questo caso l'arbitro ha visto, è un'applicazione diversa della Moviola, insomma. Ma io sono contro, sono contro la prova TV, io la abolirei del tutto, però non vedo perché per Destro ci siano tutte queste polemiche quando in passato sono stati casi identici. Sì, ma questo è un caso di, ma secondo me non sono così identici. Aspetta, a chi tocca? Dino da Cuneo, buongiorno. Sì. Dica. Buongiorno. Ma io sulla stessa falsa riga dell'ascoltatore precedente volevo dire una cosa più o meno simile, ma più che altro mi volevo concentrare su un altro aspetto, ossia se si tratta di un evento violento, ora che si riprenda la prova TV o no, io credo che comunque un atteggiamento violento, perché di questo si tratta, debba comunque essere punito, indipendentemente dal fatto che l'arbitro lo veda o non lo veda. Cioè se l'arbitro non l'ha visto, peggio ancora. Perché un arbitro che è lì a 20 metri, 10 metri da questo avvenimento, che non veda una situazione del genere, può capitare. Significa che parliamo di regolamento, parliamo di concetti astratti. Questo discorso qui è giusto, perché dai, i comportamenti violenti. Infatti, posso dire che in tutta questa vicenda, poi il discorso del codice etico di Prandelli, secondo me, è tutto un altro discorso. Nel senso, comunque, Prandelli, che questo discorso sul codice etico un po' fatica con mille problemi, perché non è facile da declinare, però l'ha spiegato, e l'ha spiegato come il tentativo di far capire ai suoi giocatori quelli che sono i comportamenti giusti per evitare che poi nelle partite importanti ci possano essere delle sciocchezze. Prandelli un'idea su questo se la può fare, può decidere tranquillamente di non convocare Destro per lo stage, perché comunque può essere rimasto, cioè dal punto di vista, un conto è l'etica, diciamo, cioè, un conto è quello che è successo, un conto è il confine di applicazione di questa prova TV. Il confine di applicazione della prova TV per una roba del genere non è stato mai applicato. Questo secondo me è la Pier, allora ascolta, abbiamo il traffico, stai ancora 5 minuti, mi ha raggiunto finalmente Adua Villa, perché mi stavo deprimendo. Ciao Adua, mi ha raggiunto con un altro ospite che tra poco presento, e con una boccia, perché veramente qui c'è la grande depressione oggi. Traffico. Rimpallo poi a Spiliqueta, Dembaba! Dembaba! Al 41esimo minuto e mezzo, sul pallone vacante, Dembaba probabilmente porta il Chelsea in semifinale. Entra Schürrle e Schürrle segna, entra Dembaba e Dembaba segna. Questo si chiama culo. No. Tutti convocati. Allora, con la storia di Destro mi avete definitivamente rotto le scatole, anche via SMS, piantate, non me ne frega niente, non sono tifoso, è un episodio che mi annoia profondamente come tutte queste storie, è cronaca di ieri, va bene. Parliamo di Champions League, ma soprattutto parliamo con Adua Villa. Ciao Carlo. Ciao, che io e Pierluigi abbiamo visto, di cui abbiamo goduto la compagnia fino a tarda ora. Tarda ora e con tanti calici di vino. e Francesco Zonin, con il quale brindo. Eccoci. Così mi passa la depressione. Mi passa la depressione, mi passa sta menata di destro, mi passa tutte queste storie molto di confine, molto da tifosi. Francesco Zonin, perché squadra tifa, per esempio? A me va benissimo, sono juventino, quindi. Quindi la guardiamo agli occhi del tifo e dunque diciamo. Noi guardiamo da più 8. Da più 8. destro in galera calcistica. No, prigione calcistica, beh, 6 giornate, cioè 4 giornate su 6. La penso un po' come te, facciamo anche meno di far polemica, poi facciamo fare il proprio mestiere a tutti, per sì. cui non l'ho tanto seguita. Quattro, da quel che ho capito, mi sembrano troppe. Sì, sono 3 più 1 in realtà. Ciao a tutti, ciao Adua, non è questione, è proprio che qui il giudice sportivo non ha fatto il suo mestiere, cioè ha invaso il campo dell'arbitro per correggere una decisione sbagliata, lo ripeto con chiarezza, la decisione dell'arbitro è sbagliata, è chiaro che l'arbitro non vede il pugno. Comunque stiamo parlando di vino, dai, veramente abbiamo fatto 40 minuti su destra, adesso parliamo di vino, quindi andiamo. Sì. No, ma io vorrei sapere, vorrei sapere, Adua Villa, come la vede? Cioè, questi uomini che si scazzano continuamente su questioni di pallone, l'arbitro e il fuorigioco, cioè guardandola dalla tua prospettiva, ma che pensi? Cioè io penso, siete una manica di imbecilli. No, assolutamente, sì, però rilassatevi, cioè dopo un po' va bene la polemica, però poi rilassatevi, aprite una bottiglia di vino, fra l'altro siamo qui al Vinitaly quest'anno, in questo momento, cioè aprite una bottiglia di vino, secondo me poi anche ci sono dei vini che ad esempio mettono insieme i tifosi. Ma va. Tipo il Prosecco, secondo me il Prosecco... Sì, mette tutti. D'accordo tutti. Ma secondo me sì, è come la vecchia DC. Ah, che lo conosce. Ah, non lo so se va bene, Francesco, perché non lo so. Però secondo me mette d'accordo tutti. Come inizio, poi magari. Sì. Poi si riscazza, lo posso dire. Sì, ecco. No, non puoi dire, lo dico solo io. Però all'inizio, secondo me, anche tu ieri sera hai iniziato con il Prosecco. Poi sei andato avanti con altro che non stiamo qui a dire. Vero? Chi ci ascolta di là, vero? È vero, Francesco Zanin, che mette d'accordo tutti? Il Prosecco? Il vino mette d'accordo tutti. Il Prosecco lo fa ancora con più semplicità e velocità, perché è un po' come il calcio il vino, poi noi ci parliamo addosso, ci facciamo di quelle paranoie completamente inutili, e invece il Prosecco è uno di quei vini che evita questo tipo di paranoia, per cui c'è solo la gioia di stapparlo con qualche amico o persona cara e godersi e magari rinfrescarsi durante queste giornate calde. E tu cosa... della bandiera calcistica. Come? Al di là della bandiera calcistica. Ma sempre al di là della bandiera calcistica. Che bevi, Pierluigi Pardo, a Madrid? Niente, sono arrivato in albergo e mi sono collegato, è una vita splendida, però diciamo che il capitolo Food and Beverage al momento è rinviato alle ore 15:05. Sì. No, dimmi ancora una cosa, poi ti lascio andare, perché sennò non voglio averti sulla coscienza, giuro, non voglio, ti voglio troppo bene. Sì, ma sì. No, dimmi solo una cosa, ho letto che a Madrid oggi c'è la guerra dell'erba. Sì. Sì, sì, intesa come ovviamente come erba. Intesa come quella del Prato, sì. del Prato, sì, del Calderon, sì, alta bassa, il Barça Serena dice no, questa erba troppo alta, e l'Atletico dice vabbè, gli diamo una rasatina, però non bagniamo il campo nell'intervallo come vorreste voi. Guerra dell'erba. Sì, che si può riassumere in due diversi stili di gioco, insomma, poi relativamente diversi, perché anche l'Atletico è una squadra tecnica, non è che sia una squadra solo da long ball, no? Da palla lunga e pedalare, però sicuramente delle due squadre quella che ama di più giocare palla a terra e quindi ha bisogno di un terreno perfetto e magari veloce è il Barcellona. Quella che invece potrebbe portare la partita in termini un pochino più muscolari, anche se fa ridere dire muscolari di una squadra che comunque ha dei valori tecnici eccezionali, no? Però insomma che è un pochino più sciabola, un pochino meno fioretto è l'Atletico Madrid, e ieri nella rifinitura pare che insomma ci sia stata una protesta semi ufficiale sulle condizioni del terreno che non piacciono al Barça, insomma, poi insomma alla fine penso che ci sia talmente talento in campo sono schermaglie carine, sono anche carine queste. Comunque verrà data una regolatina al Prato, non verrà bagnato nell'intervallo, eccetera eccetera. Comunque stasera si gioca e vince chi? Prendo nota, ho già preso nota del pronostico di Crosetti prima. Vince chi? Pardo? Chi vince? Stavo cercando di astenermi dalla... dalla brutta figura del pronostico che sarà sbagliato. Guarda, io mi sento l'Atletico, anche se razionalmente direi il Barcellona, però mi sento l'Atletico e ti dico l'Atletico. Allora, io e te l'Atletico, Crosetti il Barcellona, Francesco Zonin. Bella domanda. E ti tocca, non è che poi me ne prendo solo io. Allora io dico che dovrebbe passare l'Atletico e quindi passa il Barcellona. Quindi passa il Barcellona? Perché dovrebbe passare l'Atletico. A due vite non gli è un po' importate meno. No, io dico, parlo, dale, vale, claro, però, claro. Perché no, venezuelana, venezuelana. Claro, signorita Villa. Listo. Villa che è un ex giocatore del Barça che ora juega para la Atleti. Claro. Sicuramente sei parente, vero, acqua? No sé, però può essere, claro, puedo. Vale, dale. Ciao Pierluigi. Ciao belli, dai. Ci sentiamo domani. Tutta la comunità del Bin Italy, mi raccomando, non esagerare come ieri. Baci, ciao. Allora, avete tempo dopo GR? Mi fate compagnia di 5 minuti? Sì, dai. Ce la fate? Sì. Dai, così è l'ultimo giorno oggi. Si può fare. Forse faccio in tempo ancora a parlare con Giuliano da Terni, così non lo tengo in linea un'eternità. Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamo perché le precedenti telefonate non hanno infastidito solo lei, ma anche a me, perché erano sicuramente tutti i tifosi juventini che si sentono i padri eterni del calcio mondiale. Lo sa a me cosa ha irritato particolarmente, non sulle partite di ieri sera, ma l'intervista oggi all'ex magazziniere del Varese, signor Marotta, che addirittura vorrebbe imporre la presenza del Llorente al direttore tecnico della Spagna e Tevez al selezionatore argentino. Mi pare un'invasione di campo enorme, perché il signor Marotta dovrebbe sapere che Llorente, pur essendo un bravo giocatore, un bravo calciatore, non è che ha questa sfilza di presenza in nazionale, anche perché ha davanti dei veri mostri. Guarda, deve essere la stessa cosa. Mi stavo un attimo distraendo perché mi ha portato delle birre. A dopo. Penso che sia solo un contatto di gioco. Ecco, lui c'è il contatto, io vado per terra e non credo che non ci sia nulla di grave. Un tempone su una gara che insomma non è stata preparata al 100%. Da gennaio abbiamo solo cominciato a fare qualche chilometro in più, però nient'altro. Quindi sono veramente contenta di ritornare a nuotare questo tempo. Pallo poi a Spillicueta, Dembabà! Dembabà! Al 41esimo minuto e mezzo! Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Canta eto. Sì, perché è uno stornello facile. L'hanno visto con la Champions, mentre Ibra ancora no. Allora, Francesco Zonino l'ho sequestrato, rimane con noi ancora 5 minuti, ma ho un altro prigioniero, Marcello Lunelli, che tutto è il mondo del vino conosce. Troppo buono, Carlo. Che ridono tutti i radioascoltatori, va bene. No, vabbè, uno dei vini più prestigiosi del mondo, no? Sì, come si chiama? Abbastanza. Ferrari. Eccolo. Beh. Ferrari, lo conoscete tutti, lo vedete su tutti i podi, le premiazioni. Insomma, sappiamo che cos'è. Ma soprattutto vi devo dire che è arrivato e mi ha snocciolato tutta la formazione di Radio 24, compresa la panchina. Bene, sì. E vi dico questo. Voglio farti una domanda. Tifi per... Ma guarda, essendo di Trento, una zona e un territorio molto così appassionato di calcio, in famiglia respiravo una simpatia, respiro tuttora una simpatia per la Juventus. Bianconera. Quindi come Francesco Zonina avete il consorzio, avete un fan club... È obbligatorio per quelli del mondo del vino? Sì. No, non è vero. No, allora io voglio chiedervi invece, non a Adua Villa, ma lo chiedo a voi, Marcello Lunelli e Francesco Zonin, cosa ne pensate dei selfie post-sesso? Ah, meno male che lo chiedi. Ma per fortuna è arrivato Marcello. Calcio, eh? Per fortuna è arrivato Marcello. No, perché oggi c'è sta, di nuovo sta storia Vandanara Icardi, no? Ha postato la foto. Perché non lo chiedo a Adua perché lei è addict di Twitter, di queste cose. Di Instagram, certo. Instagram, eccetera. C'è sta roba, nuova moda di postare queste foto. Oggi la solita Vandanara ha postato il suo fidanzato in déshabillé, diciamola così. Come la vedi? Beh, io non sapevo neanche chi fosse né lei né il suo fidanzato. La nostra amica comune, Valentina Mezzaroma, mi ha detto: non puoi non sapere chi sono questi personaggi. E quindi sono andata a vederla, ho visto quante persone la seguono e poi ho capito perché la seguono, in effetti, al di là di scandali e meno scandali. Però, insomma, la signorina ama fotografarsi e fotografare. Io definisco il suo fidanzato, cioè un bravo giocatore, però per me di professione faltronista. Poi gioca anche a pallone, è anche bravo, segna dei gol, però secondo me ricorda più un tronista che un giocatore. No, allora, no, non avete risposto, Marcello? No, non sono tecnologico, non sono su Facebook, non sono da nessuna parte, mi trovo in difficoltà, insomma, ecco. Già alzandomi la mattina trovo difficoltà, no, prima di andare in ufficio. Devo dire che pensare addirittura a un selfie in un momento così personale della propria vita, magari all'ultimo trend, magari siamo dopo un vinitali un po' più allegro di questo potrebbe essere. Il problema è che siamo arretrati tecnologicamente, il problema è solo questo. Sì. Senti, ma vi chiedo ancora questo: prossimi impegni vostri con lo sport quali sono? Francesco Zonin, con lo sport, allora la mia passione si chiama kitesurf e sono talmente appassionato. Davvero? Che non lo faccio da un anno, perché purtroppo Marcello insegna, perché è sempre in giro e lavora come un disgraziato, no? C'è poco tempo per farlo. Comunque sci molto, e quest'anno non è andata di lusso perché di neve ce n'è stata, e kite correvo, ma il ginocchio ha deciso che non voleva più saperne, e allora mi sono andato un po' al nuoto. Anche perché poi il nostro lavoro prevede molte mangiate e tante, per cui cerchiamo di tenerci un po' in forma. Non ho la fortuna di avere macchine sportive, e quindi mentre il tuo esimio collega è io il mio sport preferito è la pantofola, nel senso, scusa Carlo, ma insomma, ecco, diciamo godersi un po' la vita, no? A parte gli scherzi, lo sci. Noi che siamo in mezzo alle montagne, lo sci è abbastanza diffuso, lo pratico con moderazione, nel senso, o un pomeridiano, casco lo metti, sì, qualche oretta e poi la pausa per guardarsi il panorama e godersi la bella giornata. Però insomma quest'anno è andata bene, un po' di brutte giornate durante i weekend, però tanta neve, bello. Ma basta guardare le montagne qui dietro Verona, vuol dire la stagione continuerà. Bello. Allora, signore di tutto il mondo, Francesco Zonin e Marcello Lunelli, belli, fighi, fanno un vino buonissimo, sono sportivi, che volete? A Adua Villa me la tengo io invece. Allora, lei è mia, ma la tengo io. Esatto. Grazie. Come rubare in chiesa, ma ti lasciamo. grazie davvero. A bottiglia me la tengo, Francesco Zonin. Ok. È stato un piacere, grazie mille. Un saluto a tutti. Figurati, adesso che dopo il traffico mi tocca tornare a parlare di destro, degli arbitri, di queste cose qui. Non c'è il traffico, benissimo, non c'è il traffico, quindi dopo il traffico non parlo di destro, perché ne parlo subito con il prossimo ascoltatore, anzi con un signor arbitro. A proposito di fighi, conosci Gianluca Paparesta? Di sì. A Adua Villa. Suggerimenti, sì, ragazzi, sì, vi ho portato qui per questo. Conosci? Aspetta che me ne stanno scrivendo. Aspetta. Allora, Gianluca Paparesta, ex arbitro, okay, di alto livello, adesso okay, moviolista e collega ormai di... Ma è quello brizzolato? No, adesso ti faccio vedere la foto. Gianluca, okay, ciao! Scusa Gianluca. Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori. Ciao, qui ho Francesco Zonin e Marcello Lunelli, ovviamente di vini te ne intendi anche tu, sai di cosa stiamo parlando, siamo a Vinitaly, quindi quindi grande qualità, eh. Grande qualità, grazie, grazie. Non davvero. Non è abusato, grazie, di questi vini, però, eh. Grazie mille. No, io abuso abbastanza, dichiaro le mie debolezze. Una è per Aduaville e l'altro per i prodotti di Lor Signori, quindi io abuso, lo dico chiaramente. Abuso anche del tuo tempo per chiederti di questa storia di Destro. Io sinceramente non ce la faccio più, o quasi, anche a rispondere agli ascoltatori. Anche ad andare a ripescare, a mestare nel torbido del tifo, eccetera eccetera. Secondo me questa è una brutta storia. Sono d'accordo con Crosetti, che prima ci ha detto è una mascherata o una pagliacciata. Certamente è qualcosa che crea un precedente. Insomma, secondo me è un errore tutta questa vicenda. Ma Gianluca, sicuramente è un'anomalia di questo campionato, soprattutto probabilmente di una federazione che non riesce a dare delle regole certe, e in un mondo come quello del calcio è fondamentale avere certezza nelle regole. Qui assistiamo ogni lunedì, martedì ad interpretazioni sui regolamenti, sull'applicazione dei regolamenti, soprattutto su queste prove TV, anche perché poi dispiace quasi essere tacciati come responsabili noi che la domenica vediamo le immagini, facciamo vedere le immagini, troviamo degli episodi che tra l'altro sono episodi abbastanza evidenti, possiamo passare come i responsabili per una squalifica o meno. Invece qui la responsabilità ricade in un regolamento che lascia tante perplessità, dove a volte viene applicato in maniera rigida e quindi non può essere utilizzata la prova televisiva per episodi che vengono controllati dall'arbitro, altre volte invece quegli stessi episodi, pur controllati dall'arbitro, vengono sanzionati con squalifiche dure. Ora, a prescindere dal merito della Luca, in questo caso l'arbitro ha visto male, ma ha visto, no? Massa ha visto. È intervenuto, quindi molto più di altri casi dove non era neppure intervenuto e ha detto che comunque aveva visto la situazione. Massa, in quel caso, l'arbitro ha visto, ha sanzionato anche il fallo di Destro, perché comunque ha fischiato un fallo, un calcio di punizione in favore del Cagliari, e poi quindi non so come possa essere stata applicata poi questa prova televisiva, perché devo dire la verità, fino ad oggi tutti gli episodi che erano stati comunque controllati dall'arbitro, a prescindere dalla correttezza o meno, perché un arbitro può vedere un episodio però gli può sfuggire un qualcosa, altrimenti adesso corriamo il rischio che tutti gli episodi, tutte le situazioni dove ad esempio prende anche un provvedimento di ammonizione per un gioco violento venga poi fatto certo oggetto di valutazione del giudice sportivo e squalificato per condotta violenta, non più con l'ammonizione sanzionata dall'arbitro. Quindi bisogna rivedere tutto quanto. Certo, ma poi qui siamo al paradosso, si diceva anche ieri con Pardo, per cui se Massa lo vede, lo caccia fuori, è vero, non finisce quella partita, poi possiamo immaginare, magari non segna, magari la Roma non vince, eccetera. Insomma, possiamo dire un sacco di cose, però se lo vede, lo butta fuori, le giornate sono due. Correggimi se sbaglio. Sono tre. Dici? Sono tre. Sì, sono tre. Comunque, con la condotta violenta, a prescindere se è stato vista in campo oppure vista poi in TV, sono comunque tre. Qui si è aggiunta un'altra perché poi è stato ammonito successivamente, quindi era già diffidato, da tre sono diventate addirittura quattro. Se fosse stato espulso sarebbero rimaste tre. Ecco, questo è il... quindi avrebbe risparmiato comunque una giornata di squalifica. Secondo te questo episodio creerà un precedente? Guarda, questo episodio io mi auguro che venga rivisto in secondo grado dalla Corte di Giustizia Federale, perché altrimenti creerà tantissimi problemi e tante polemiche per queste sei giornate restanti. Sicuramente farà sì che verrà modificato il regolamento e soprattutto un'interpretazione, dovrà essere data una interpretazione univoca. Certo è che se dovesse rimanere questa decisione ci saranno tantissime polemiche, tantissimi episodi che meriteranno di essere rivisti alla luce di questa interpretazione. Quindi ogni sabato e domenica dovremo analizzare tutte le partite in funzione di possibili condotte violente che sono state controllate dall'arbitro e non sanzionate con il provvedimento dell'espulsione. Quindi ci sarà un caos totale nei prossimi sei giornate. Gianluca, ti chiedo ancora questo riguardo alla Champions League, Atletico Madrid-Barcellona, arbitra quello che a detta di quasi tutti è il miglior arbitro d'Europa, del mondo, cioè l'inglese Webb. Sì. A cosa dovrà stare attento in questa partita? Quali le difficoltà per un arbitro in questa specifica partita? Atletico Madrid-Barcellona. Sai, è sicuramente una partita sentitissima perché è un derby in una competizione europea, due squadre dello stesso paese che si incontrano, ma lui è abituato, avendo diretto anche 15 giorni fa Fiorentina-Juventus, avendola diretta anche molto bene. Quindi io credo che un arbitro come lui, che ha già alle spalle una finale dei campionati del mondo, una finale di Champions League, cercherà di impostare la sua direzione cercando di far giocare il più possibile, però intervenendo al momento giusto e facendosi rispettare anche col dialogo, con lo sguardo piuttosto che con i cartellini, che poi a volte non portano a nessun risultato. Questa è la sua grande forza, la sua grande forza sta proprio in questa personalità, e questo lo sappiamo benissimo. Benissimo, chi vince? Atletico Madrid Barcellona? Perché sto raccogliendo pronostici, ho Crosetti, Pardo. Io dico che si qualifica l'Atletico Madrid. Anche tu? Allora sei con me, stai con me, Pardo? Questo abbiamo detto, mentre Crosetti sarà a Barcellona. È andato a vedere Cézanne, che gli ricorda Messi, arte contemporanea, arte in movimento. Gianluca, allora me lo scrivo, Atletico Madrid, Pardo, domani apriamo le urne. Grazie, un abbraccio. Buone bevute allora, Sì, noi andiamo avanti, andiamo avanti. Senti, ma dove mi porti dopo? Ciao Gianluca. Saluti a tutti, ciao, grazie, ciao. Ciao. Sai che qui è come un po' l'Italia in miniatura, no? Sì, abbiamo i padiglioni, quindi puoi scegliere, dobbiamo andare in Sardegna, in Abruzzo già ci siamo, possiamo andare in Piemonte, possiamo andare in Toscana, Sardegna, dimmi te. Non mi dispiace. Lo so che la Sardegna non ti dispiace, dai. Ma comunque questa edizione di Vinitaly come la vedi? Io l'anno scorso non sono venuto, non mi ci hanno portato qua, Radio 24 mi ha mandato, mi ha detto fai troppi danni, quindi quest'anno stai a casa, squalificato per un anno. Però vedi, sei stato bravo, hai recuperato. E vedi, ti hanno mandato. Però dopo ci vediamo nel 2019, cara Verona, cara Vinitaly. No. Ma dunque, io ti porto in Sicilia. Stefano, buongiorno da Catania. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie per averle prolungata fino alle 4. Ci mancherebbe, fino alle 4, tutti i giorni. Qui fino alle 4 al tornio, mi ha messo a cottimo. Tutti i giorni, 2 ore. Io sono felicissimo di questo, anche perché posso parlare con un sacco di ascoltatori. Prima c'era poco tempo, adesso ne abbiamo tanto. Dica. È vero. E senta, io volevo dire questo, prendendo spunto dalla qualifica di destro, io volevo fare una riflessione. Perché una società è responsabile oggettivamente se un suo tesserato si organizza per balzare i risultati, le scommesse, eccetera, mentre non è responsabile oggettivamente per comportamenti scorretti all'interno del campo di gioco? Vabbè, ma non sarebbe da introdurre un qualcosa? No, a parte che io ho detto molte volte, a me la responsabilità oggettiva come istituto è una cosa che fa venire abbastanza la pelle d'oca, perché, ma questo è un concetto giuridico, poi io lo condivido per quanto riguarda alcune questioni calcistiche. Ad esempio, non, secondo me una società deve avere il controllo di quello che fanno i loro tesserati quando tramano, come è successo, su questioni di scommesse, eccetera. Però adesso che vogliamo fare? Cioè, gli vogliamo dare davvero, vogliamo mettere in prigione destro? Cioè, responsabilità oggettiva perché in un contrasto di gioco ha dato uno schiaffo a un avversario, bruttissimo gesto, possiamo dire, se volete mi ripeto, no? Brutto gesto da condannare, da non far vedere ai bambini, quello che volete, ma responsabilità oggettiva per cosa? Per un contrasto di gioco? Quindi la società di cosa dovrebbe rispondere? Cioè, non è questo che mi sfugge. No, magari fargli una multa così sensibilizzano i loro tesserati, no? Ma non lo so, io non la vedo così. Sensibilizzare rispetto a cosa? Vuol dire fate i bravi ragazzi, le società dicono cercare di vincere partite. Poi è chiaro, tu sei stato squalificato senza mettere in mezzo la responsabilità oggettiva, sei stato eventualmente, una società può dire sei stato squalificato 4 giornate, benissimo, ti do una multa, ma me la vedo con il regolamento interno, senza aggiungere orpelli giuridici. Cioè, una responsabilità oggettiva per il comportamento dei giocatori mi sembra davvero davvero tanta roba. È vero che a me piacciono gli irregolari, è vero che ho dei pensieri qualche volta un po' borderline, per cui anche ieri ho detto e oggi confermo, a me di questa vicenda ha dato molto più fastidio la simulazione di destro rispetto al contatto fisico, però responsabilità oggettiva mi sembra davvero troppo. Mauro Modena, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti a lei per il posto dove è. Sì, e soprattutto per la compagnia. Tra l'altro, ecco, io volevo soltanto fare i gran complimenti a Mourinho, perché ieri ha vinto una partita fantastica, anche se io non sono stato un tifoso interista, e vederlo correre per levare i giocatori dal mucchio dei festeggiamenti per dargli le ultime disposizioni è stato qualcosa di incredibile, anche perché sì, la parata di Cech su Marchigno è stata decisiva, tra l'altro. Ma sicuro, no, ma il vero valore aggiunto sta nel fatto che Mourinho riesce a far rendere chiunque al 100% delle sue capacità, e questo è un grandissimo merito. A tua villa devi andare via, stai con me? No, io sto con te, anche perché sto ricevendo sia su Twitter che su Instagram, Globetrotter Gourmet, un sacco di messaggi, ad esempio. Veramente? Sì, ci sono. Aspetta, me li dici dopo? Sì, dai. C'è la borsa, dopo me li dici. Ah, va bene, dai. Allora, borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Convocati. Non cadete nell'errore, non cominciate a dire ah però la Juve, ah però il Milan, ah però l'Inter, ah però la Roma, ah la Lazio, così, il Chievo, il Cagliari. No, non è questo il punto. Il punto è che se accettiamo questo giudizio cambia tutto. Voglio che vengano ridati i gol che non sono dati, cambia tutto. E quindi, a mio parere, è una cosa che non ha nessun senso giuridico. Da domani non decidiamo che ogni fallo lo rivediamo con la telecamera e decidiamo se era da giallo, se era da rosso, giallo 2 giornali di squalifica, rosso 3 giornali di squalifica. E se lo accettiamo su queste cose, a maggior ragione lo dobbiamo accettare su altre, perché se adesso Cagliari dice, madonna scusa, ma allora tu stai dicendo che l'arbitro non è che non ha visto, ha sbagliato. Tu stai dicendo che l'arbitro ha visto male e ha sbagliato. Quindi che cos'è, un errore tecnico? Quindi mi fa ripetere la partita, perché potevo giocare 11 contro 10. Questa è la tirata di Fabio Caressa ieri sera, sempre sull'episodio di destro, quindi ieri in serata post Champions League, queste parole di Caressa peraltro condivisibili, io me l'ho detto prima, la penso allo stesso modo, la penso come Crosetti, eccetera. Okay. Allora, stavamo dicendo che ci sì? stanno ritwittando un sacco di persone, non solo dal mondo del vino, ma anche dal mondo della birra, che sono molto attivi, i nostri amici di Malti dalle Gare, poi vogliono che assaggi tu, assolutamente, proprio tu Carlo, questo Nebbiolo delle Colline Novaresi, sul profilo Globetrotter Gourmet di Instagram, mi chiedono ancora foto, perché quella di ieri sera io te pardo non basta, anche se secondo me, fidatevi, quella è il massimo, poi di quella non possiamo fare. Vabbè, sembriamo Icardi e Vandanara, assolutamente. Comunque io mi fido di te, allora ti affido pubblicamente la mia procura su Twitter, che io non posseggo assolutamente, e quindi fai quello che vuoi, potete dire a me e io poi no, impazzisco, perché se poi no, però non chiedetemi cose calcistiche, poi io non ce la faccio. No, anche perché a noi del calcio ci importa relativamente, no? Va bene. Pochino. Ci importa. Guarda, pochino. A me mi importano, te l'ho detto, le aree hospitality, che poi un giorno quando verrò da te con più calma fuori al Vinitaly ti dico cosa si beve. Ad esempio da Lunelli, molto. Posso dire, Lunelli, sì. Quindi Ferrari. Lui ha detto che era in effetti juventino. Sì. In effetti, in quale area hospitality io ho trovato il Ferrari? Juventus. Nell'area hospitality della Juventus. Qual è lo stadio italiano in cui si mangia e si beve meglio? Guarda, dove io ho mangiato veramente meglio è stato il Siena, l'hospitality del Siena. Non lo voglio dire perché... amica di Valentina Mezzaroma. No, assolutamente, guarda, io sono molto critica, sì. Però devo dire che lì forse, sai, anche perché forse era anche un'area hospitality un po' più piccola, perché comunque, poi sai, comunque la cucina toscana, una cucina, ecco, meglio in inverno che quando iniziano ad arrivare le partite primaverili, perché comunque la cucina toscana è un po' pesante, sì. E quindi ecco, l'area hospitality del Siena la si gode meglio in inverno. Invitiamo tutti gli ascoltatori, 3 milioni di ascoltatori, tutti al Siena, tanto a mangiare. A mangiare. Ce la farete a parlare di Serie B prima della fine della stagione? Scrive Gabriele da Siena, follower di Adua Villa. Capito? Abbiamo... Cioè, tra i nostri ascoltatori abbiamo anche i tuoi follower. Leggi questo messaggio. Aspetta. Ce la farete a parlare della Serie B prima della fine della stagione? Gabriele da Siena, follower di Adua Villa. Ah, ecco. Ciao Gabriele, bene. Ciro, provincia di Salerno. Buongiorno. Sì, sì, ciao. Buongiorno a ciao. Tutti. Complimenti per la trasmissione. Non c'era inferiore per la precisione. E lo sottolineiamo dopo un po' di tempo. Ma fa benissimo a sottolineare, a geolocalizzarsi, come dice sempre Pardo. Perché provincia di Salerno mi scrivono così, però Nocera inferiore e siamo chiari, precisi, Nocera. Detto questo, allora, io volevo fare una considerazione velocissima sulla giornata di ieri, nel senso che ieri sera abbiamo avuto due gare che ci fanno ricordare che il calcio è pur sempre lo sport più bello. A me e penso che noi come sistema, fin quando, stiamo restando che è giustissima la polemica, tra virgolette, sul caso destro, chiamiamolo così, però fin quando noi come sistema ci imballiamo in quel tipo di discorso, noi a quel calcio non ci apparteremo mai più. Non abbiamo proprio la cultura per arrivare a quel tipo di ragionamento. E poi mettiamo in quella serata di ieri, la serata in cui Mourinho, per l'ennesima volta, oltre alla capacità di motivatore, perché oramai è facile liquidarlo con questa etichetta, dimostra per l'ennesima volta di leggere le partite in maniera straordinaria. È semplicistico, Ciro, è semplicistico, perché non è solo un grande motivatore, è anche un grande motivatore, è un grandissimo allenatore, punto. Perfettamente, anche perché vorrei far ricordare all'interno del più recente palmarès, oppure albo d'oro del, così si chiamava una volta, della Champions League, che le ultime vittorie, un'altra di nuovo tra virgolette a sorpresa, le ha beccate proprio lui con Porto e Inter, che non erano in queste grandissime favorite del pronostico. La stessa Inter di cui si batizza è riuscito però, comunque però, a fare questa impresa. Squadrone però, cioè, il Porto sono d'accordo, l'Inter appartiene quella Inter appartiene all'ambito delle grandi squadre che Mourinho ha allenato, perché comunque soltanto perché lui è capace di tirar fuori il 100% da tutti per tutti i 9 mesi della stagione. Ma perfettamente questa è d'accordo. La mia opinione, ma è anche comunque la mia. Anche complimenti per la trasmissione, un abbraccio. Grazie Ciro, grazie. Cosa ne pensi di Mourinho? Mourinho conosci, dai. Sì, non conosci Mourinho? Sì, però bell'uomo, criptico. Ma ti piace? Cioè... secondo me è basso. No, non è così basso. Non è così alto, basso. Normale. Vabbè, io sono un 78, cioè se poi è troppo basso. Sì, non va bene. No, dai. No, però Mourinho, insomma, è uno che... No, ma tu mi hai chiesto se mi piace io... Ah, sì? Ah, però, vedi, sempre gli impensabili, no? Gli impensabili. Ciao. Stefano, ancora buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Buongiorno, volevo intervenire perché, a parte la trasmissione che è fantastica anche perché ti fa trovare alle volte in disaccordo ma molte volte anche in accordo con voi, cioè Pierluigi Pardo che è un idolo perché rappresenta una persona che riesce a fare nella telecronaca qualcosa di speciale e mi piace molto anche Borghi di Sky che è molto molto bravo, un ragazzo molto nuovo che fa il calcio spagnolo e lo fa con un'enfasi che è favolosa. Però volevo intervenire per dirle dove non ero in accordo, che era Mazzarri, però credo che non sia l'argomento centrale no, del no, giorno. No, non avete capito, ogni argomento è l'argomento centrale del giorno, perché questo programma io voglio che voi parliate di qualunque cosa, ovviamente a livello di sport o dintorni, che vi pare, che non c'è uno schema. Dica. Bene, no, diciamo Mazzarri quindi diciamo che non mi trovo in accordo perché lei non lo considera all'altezza dell'Inter, mi sembra di aver capito nelle trasmissioni passate, o meglio forse non è un allenatore che può portare l'Inter ai risultati europei che ha avuto negli ultimi anni, e su questo si può anche essere d'accordo perché non ha mai avuto la possibilità di gestire una grande squadra, quindi insomma anche questi ultimi risultati negativi forse non riesce esternamente a portare la squadra dal punto di vista a portare alla squadra una certa tranquillità, però io credo che almeno Juventus, Roma e Napoli siano nettamente superiori all'Inter come organico, quindi se sta sbagliando qualcosa è perché non riesce ad essere sopra la Fiorentina. ma quest'anno no, ne avessero Mazzarri, tutti i colori, Mazzarri, perché tra Mazzarri Riguri ha una squadra, sì, Mazzarri ha una squadra onestamente scarsa. Io devo con grande dispiacere salutare Adua Villa. Sì, io ti saluto anche perché vado a Mantova a presentare il libro Vino Rosso Tacco 12, che l'abbiamo presentato anche qui. Sei in tournée? Sì, sono in tournée, mi chiamano per le piazze, si può dire? No, è scherzo. questa sera sarò alla Feltrinelli di Mantova, domani alla Feltrinelli di Brescia, poi piano piano, vedi, mi avvicino, torno a Milano, ti passo a salutare sempre con una boccia di vino nel trolley. Anche perché il libro l'ho già letto, quindi... Ah, l'hai già letto? Sì, aspetto che tu ne scrivi un altro. Ok. Mi è piaciuto molto. Va bene, grazie. Mi è piaciuto molto, aspetto che tu ne scrivi un altro, ti aspetto quando vuoi. Sta piacendo molto i maschietti, io pensavo che poi i maschietti mi avrebbero criticato. Invece strano. Vedi. Quindi, allora... Leggetelo e poi mi dite. Allora, amici di tutti i convocati, se avete delle domande da farmi su Carlo Genta, allora, Twitter... Sì. Ad Avilla, così rilancio Instagram Globetrotter Gourmet, ci sono delle foto, anzi guarda, ne facciamo una adesso. Sì, ripeti però, mentre facciamo la foto ripeti. E allora, quindi Twitter, aspetta, Ad Avilla e eccoci, grazie, eccoci, pazzesco. Guarda, facciamo come la notte degli Oscar in diretta, capito? Yeah! Altro che mi squalificano da Vinitaly, Radio 24 no, mi squalifica, con gli occhi, no, mi squalifica da Vinitaly fino al 2047. Scusate, ma l'ultima volta della mia vita che vengo. Dai, vieni un po', aspetta, non con gli occhi chiusi, fai un po' più il divo, dai, un po'. Ma che divo? Fabrizio, maschio... buongiorno. Sì, che devo fare? Ciao Adua, buongiorno, dica. Buongiorno, volevo intervenire velocissimamente. Abbassi allora, la radio per favore, perché sennò non la sento. Grazie. Io non ho radio accesa, No, sento ritorno in cuffia, quindi qualcosa ci deve essere. Sono dentro in macchina, però non ho radio accesa. Va bene, dica. Provo dica. A parlare. Allora, sì. Io non sono d'accordo con tutta la questione di destro. Essendo di Rovigo, non potevo che non essere un rugbista dalla nascita. Però sono uno sportivo in genere, sia per quanto riguarda la pratica, sia per quanto riguarda il discorso del tifo, che per me essere sportivi vuol dire un'altra cosa. Amo tutti gli sport, ma penso che chiunque abbia fatto dello sport a livello agonistico, almeno, possa capire che il gesto di destro non è un gesto naturale, è un sinistro. E quindi è un gesto assolutamente scorretto, e poi lui secondo me si è comportato anche in maniera molto negativa, poi fingendo quello svenimento. Allora io è una cosa Fabrizio assolutamente... lo dico anche a lei da rugbista, a me ha dato molto più fastidio la seconda che lei ha detto, cioè quella, la parte relativa alla simulazione, ma sono anche stufo di ripeterlo, rispetto a... Allora, da rugbista, è stato un contatto di gioco molto scorretto, giusto? Ne vediamo anche nel rugby, giusto? Giusto? Fabrizio? Talmente tanto scorretto anche nel rugby che si menano dalla mattina alla sera, no? Sì. E quindi questo è un gesto voluto, volontario. E viene sanzionato anche nel rugby nella maniera perfetto, va bene. Ok, lo sanzioniamo. Detto questo, lo mettiamo anche in croce? Cioè destro. Volevo solo dire che mi trovo sconcertante il fatto che se ne parli così tanto. Bisognerebbe ogni tanto, al di là del tifo della bandiera, riconoscere che una persona sbaglia, e quando sbaglia paga. Chiuso. Fabrizio, lei ha ragione perfettamente nel dire che sta parlando così tanto. Tanto è vero che ne stiamo parlando ancora io e lei alle 15:45, tanto che è ora del traffico, del giorno dopo. Quindi e ha ragione nel dire, se ne parla anche troppo, se ne sta parlando un sacco in maniera spropositata. Tutti convocati. Dovevamo far sentire Federica Pellegrini, ne avevamo? Ce l'avevamo, perché vorrei parlare anche di nuoto oggi. Un tempone su una gara che insomma non è stata preparata al 100%. Da gennaio abbiamo solo cominciato a fare qualche chilometro in più, però nient'altro. Quindi sono veramente contenta di ritornare a nuotare questo tempo, poi comunque passando più forte rispetto a quello che sono abituata a fare io di solito, però dobbiamo cercare di fare questo se vogliamo portare avanti i 400. Ormai è diventata una gara veloce, con i passaggi veloci, quindi insomma dobbiamo adattarci a questo e sono veramente contenta. Questa Federica Pellegrini, il tempo a cui si riferisce è 4:04:56, nuotato ieri a Riccione negli assoluti italiani. C'è stato soprattutto un altro grande tempo di Gabriele Detti, perché ha stampato sugli 800 il record europeo, che è 4:42:74, quindi scintille dalle vasche di Riccione. Stiamo aspettando un ospite per parlarne, speriamo che di riuscire a prenderlo il prima possibile. Intanto Gaetano da Padova, buongiorno. Oh, buongiorno Carlo. Allora, intanto assaggiate anche un po' il primitivo di Manduria, che non è male. Ma ci manca, siamo qui apposta. Sì. No, poi due cose, insomma. Allora, di destro è intervenuto, sì, l'arbitro, non doveva intervenire la prova televisiva, appunto. Sì. Sappiamo perché è intervenuta, insomma, sappiamo chi doveva favorire. Chiuso l'argomento. No, no, l'ultima poi, parte mi è piaciuta di me. Chi doveva favorire? Beh, la Juventus? Vabbè, insomma, cioè, qual è? Lei mi sta dicendo che è tutto premeditato, tutto a favore della Juventus. Beh, no, più che premeditato, ma sa, sono quelle cose lì perché l'arbitro ha sbagliato, anzi, tant'è che l'arbitro ha ammonito anche il calciatore del Cagliari, per cui. Quindi, cioè, voglio dire, è stata una svista come quando non si dà un rigore. Sì, no, ma Gaetano, allora, fin qui siamo perfettamente d'accordo e lo diciamo da due giorni, no? A costo di. A chi stressare perfino gli spettatori. L'errore della commissione disciplinare. Cioè, a chi giova questo errore? Ma nessuno, però Gaetano, ma nessuno, la Juventus ha già vinto lo scudetto, cioè ha bisogno, la Juventus ha bisogno della squalifica di quattro giornate per destro per vincere questo scudetto con 8 punti di vantaggio? Secondo me no. Non è questione di a chi giova, non lo so, magari giova di più al Milan e all'Inter, che devono ancora affrontare la Roma nella corsa all'Europa League. Allora leggiamola così, allora cos'è, un favore al Milan e all'Inter che non avranno destro contro? Se stiamo a leggerla in questo modo possiamo declinarla in mille maniere, il che secondo me è ancora più stucchevole dell'episodio stesso. Quindi leggiamo in un'altra maniera, e cioè è stato un precedente abbastanza pericoloso, cioè un errore nella gestione di questo episodio, che è quello che stiamo dicendo tutto il giorno anche oggi, e ci auguriamo che non finisca per fare troppa giurisprudenza, perché altrimenti non si sa dove si può arrivare con un precedente di questo tipo. Cioè stiamo riscrivendo un regolamento in corso d'opera, il che è estremamente pericoloso. Mi limiterei a questo, non al fatto di a chi, cui prodest tutto questo, perché ripeto, non ce la possiamo fare. Ecco l'ospite che aspettavamo, Stefano Arcobelli, inviato a Gazzetta dello Sport, mio amico. Ciao Stefano. Ciao. Dimmi di questi due tempi, stavamo parlando di Pellegrini, l'abbiamo sentita prima. Guarda, 4:04:56. È stata una bella giornata ieri, frizzante, come debutto si è sempre freschi, quindi i ragazzi sparano subito i primi colpi, e naturalmente quella che spara il colpo più eclatante è sempre Federica, perché ha dato un po' un piccolo messaggio, non solo all'Europa, perché quest'anno ci sono gli europei a Berlino, sì, quindi l'evento dell'anno per noi italiani sono gli europei, quindi attestandosi subito come prima europea nei 400 stile libero. Ma diciamo sostanzialmente eguagliando l'australiana Barras, che quindi diciamo tra le stelle liberiste più forti del mondo in questa specialità, è soltanto a 10 centesimi dall'americana Katie Ledecky, che è campionessa del mondo, e quindi sì, parliamo di una ragazza di 17 anni, quindi sostanzialmente Federica paga con 10 anni in più di carriera, quindi di lavorio fisico, tecnico, mentale, riesce ad essere fresco come una quindicenne, insomma è veramente un risultato sensazionale. Ecco, e questo, dove porterà questo tempo non sappiamo. Sì, è ancora presto, sono ancora insomma i primi exit poll della stagione. Ma della pelle sappiamo tutto, di Federica sappiamo tutto, di Gabriele Detti molto meno, perché il record europeo sugli 800, 7:42:74, mica male, eh? Sì, dobbiamo ancora imparare a conoscerlo. Anche Gregorio Paltrinieri, certamente secondo me Detti ha un po' gettato la maschera a Erling, agli europei, con la prima medaglia nei 1500 in Basca Corta, sul gemello Gregorio Paltrinieri, quale... Eppure lui ieri era sceso sotto il record di Colbertaldo, e parliamo di tempi fatti da Colbertaldo con un'epoca di costumi gommati, quindi sicuramente aiutato dalla tecnologia. Questo invece è un record fatto col pantaloncino, quindi assume un'importanza, anche uno spessore tecnico certo, superiore. E quindi secondo me questo è un altro segnale in vista di Berlino per un discorso di medaglie potenziali per l'Italia ad agosto. Certamente un due gemelli del mezzo fondo, che adesso magari hanno caratteristiche diverse, perché Detti verrà un po' più proiettato sulla velocità, avendo questi finali come quello che ha fatto ieri, verrà proiettato più sui 400, mentre Paltrinieri, che deve ancora imparare un po' di cose, perché secondo me sul cambio di ritmo ancora deve ancora acquisire maggiore esperienza e sicurezza, e nei 1500 può darci grandi soddisfazioni. Io diciamo che li rivedrei volentieri anche oggi, ma dobbiamo aspettare venerdì nei 1500. Sì, beh, possiamo aspettare con calma. Intanto un'ultima cosa, Stefano Arcobelli, colpisce molto, è inutile nasconderlo, nell'immaginario collettivo la storia di Antorp, che ha questo problema dopo un'operazione, addirittura rischia di perdere un braccio. Prima leggevo le ultime notizie, è un po' migliorato, ma il suo manager dice la situazione è ancora molto critica. Campione maledetto, la maledizione dei grandi campioni, che poi sono due facce della stessa medaglia, questa storia un po' curiosamente accostata alla vicenda Pistorius in questi giorni, per una pura coincidenza temporale, colpisce molto l'immaginario collettivo, perché Jan Torp è un nuotatore, è un atleta che tutto il mondo conosce. Sì, quello che sta succedendo per esempio anche ad Hackett, col fatto dei suoi certo. Miseri, cioè sono quei campioni che probabilmente fuori dall'acqua non sono riusciti a trovare un'entità. Io ricordo quando ad Atene, dopo le medaglie, ci fu uno sponsor tecnico che ci invitò per fare delle interviste, lui sembrava veramente logoro di cloro, voleva fermarsi qua e là. Secondo me si è fermato troppo presto. Io, non perché siamo italiani, ma secondo me invece l'epopea Pellegrini dimostra che pur anche lei ha avuto varie tragedie, ha avuto certo. La perdita di Castagnetti, però diciamo che non si è come dire distratta da quella della sua professione. Lei dice: io penso al nuoto 24 su 24, quando smetterò davvero per sempre, mi dedicherò all'altra vita, farò la mamma, farò vita privata, però certamente non mi vedrete sotto i riflettori. Invece Torp si è ritirato troppo presto, è stato sempre sotto i riflettori, perché poi l'abbiamo visto ovunque, non è riuscito secondo me a superare il fatto che Phelps l'avesse un po' come dire nascosto, l'avesse oscurato, e quindi ha cominciato a fare una serie di errori, compreso questo ritorno prima di Londra, troppo un po' gettonato, senza certe basi tecniche. Sì. Sì, resta una vicenda di un altro grandissimo campione che probabilmente non riesce a reggere fino in fondo mentalmente il suo talento. Grazie Stefano Arcobelli, grazie, grazie, buon lavoro, grazie, grazie a Franco Piantaneda qui da Verona, autore di questo programma, grazie a Paolo Corleoni, ci sentiamo domani, naturalmente alle 2, non saremo più qui, ma a Milano. Ciao a tutti.